La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Non è un disturbo questo qua, non è la radio che non prende. Sono io che mi sto mettendo uno di quei sacchetti di carta in testa, quelli con due buchi per gli occhi che metteva il figlio di Silvestro, di Gatto Silvestro, perché sono molto imbarazzato. Oggi dobbiamo parlare di un tema un po' piccante, la seduzione e quindi anche le avventure un po' così che avete avuto in, più che altro in spiaggia, perché in montagna non si parla mai di pappagalli in montagna, i pappagalli sono sempre in spiaggia. Ebbene sì, oggi il tema è quante volte figliolo. Già, questo fa un po' paura. Non voglio sapere il numero esatto, voglio sapere un po' le vostre avventure, le vostre esperienze. Mi raccomando, moderiamo i termini, perché ci sono le associazioni, quelle lì, i vari genitori, nipoti, zii, parenti e nonni, sempre all'agguato, sono sempre lì ad ascoltare la radio, guardare la TV e poi intervengono. Manteniamoci sull'ortofrutticolo, patatine, piselline, non andiamo oltre, mi raccomando, state molto molto casti. Ma iniziamo sfatando subito una leggenda, un mito, una diceria, che il sesso sia legato all'età giovanile o comunque quella della prima età adulta. Non è così, vi assicuro, esiste tutta una scuola che io chiamo di Sex and the Arthritis. E lo so per esperienza diretta o forse indiretta, dovrei dire, perché dovete sapere che mia mamma, non mi interessa niente, ma io ve lo racconto lo stesso, mia mamma frequenta un circolo di anziani, come ce ne sono in tanti paesi ormai, questi luoghi di ritrovo in cui tu dici: che faranno? Giocheranno a ramino? Berranno il tè? No, fanno delle tresche, cercano, non so come dire, fanno queste cose qui. Quest'estate erano quattro amiche, guarda caso, e un'amica aveva detto a mia mamma: mi interessa quello lì. Quello lì era un ormai pensionato, che aveva raggiunto la pace dei sensi naturalmente, però non aveva il coraggio di avvicinarsi e quindi ha mandato appunto mia mamma a chiedere, non come sei, che muscoli hai, no, non interessano più quelle cose, quell'età, cosa prendi di pensione, la casa in cui abiti è tua, tua figlia dà fastidio o no. Ebbene, a furia di chiedere, tra una mazurca e un bicchierino di rosolio, non so, non berranno rosolio, non so cosa bevono, è successo l'irreparabile. Questo signore si è dichiarato a mia mamma, invece che all'altra signora che era interessata. Figuriamoci, è nata una lite all'interno del gruppo di quattro amiche. Ebbene sì, le avventure di Sex and the Arthritis sono a volte sconvolgenti e forse solo questo, raccontano a volte anche delle barzellette che mi fanno vergognare, me le raccontano, io sono lì imbarazzato che ascolto, cose che non sentivo dai tempi delle medie. E vabbè, c'è speranza per tutti, quindi aspettiamo, se vogliamo ottenere una vita così, non dico sessuale, ma comunque di divertimenti e di legami affettivi, e la terza età, finora non è che sia successo molto. 800 24 00 24 per sentire le vostre esperienze, qualunque età, mi raccomando, anche al circolo degli anziani non c'è assolutamente alcun pericolo. Allora, nell'attesa, cosa posso dirvi, cosa posso raccontarvi? Vi faccio sentire una cosa, ecco. Andrea, tu con le donne ti comporti come un povero idiota. Tu l'hai letto Il seduttore di Kierkegaard? Letto cosa? Kierkegaard! Ma Kierkegaard, ma tu sei... Ah! Senti, tu sei proprio matto, no, sai cosa sei? No, sei proprio un povero scemo, sai. Sei proprio un ignorante, ma tale, va là. Buongiorno. Buongiorno. La più bella mammina della spiaggia. Fidanzati? Certo che ci siamo fidanzati. Così sola, così mattiniera, così naiade. Posso sedere? No, meglio di no. Posso dargliela io? Ma guarda te, mi si è incastrato il bacino. Alle mani di fata. Cosa fa il furbo? Alle mani di fata, alle mani da trambiere, alle mani. Non posso far toccare da nessuno, sono così sensibile. Bravo, ce l'ho anch'io le mani di fata. Sono bravo. Ci do. Te ne approfitti, Aspetta. Sì. Dio mede, sei già arrivato. Ma cosa fallo quello? Niente, mi stava spalmando la crema. Papà, loro due danno sempre noia. Beh, avete riconosciuti Gigi e Andrea in un vecchio film dell'83, mi sembra. Acapulco, ultima spiaggia a sinistra o prima spiaggia a destra. Oggi ho un po' le informazioni cinefile, un po' confuse. Avete sentito all'inizio che Gigi, per fare il colto, citava Il seduttore di Kierkegaard? Beh, non andate a cercarlo in libreria, non esiste. Si chiama Diario di un seduttore, non ha nulla a che fare con le tecniche di seduzione. Il povero Kierkegaard ha avuto una fidanzata in vita sua, è stato abbandonato per tutta la vita. Ha continuato a rompere le scatole ai lettori su questa sua storia d'amore andata a finire male. Mentre aspetto le vostre telefonate all'800 24 00 24, non mi dite che non avete fatto niente. Qualcosa avrete fatto, raccontatemela, avanti, su. c'è questa, oggi è anche la giornata ideale, a Milano è abbastanza fresco, ma sarete sicuramente in zone torride, che così ispirerà la vostra parte più caliente. Perché a volte non si può parlare di questi argomenti, qui si può, si deve anzi parlare. Qualche anno fa era persino vietato ascoltare questa canzone. Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto. Era il 1975 forse, e Mina cantava questa canzone su testo di Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio disse di aver scritto il testo sdraiato su un enorme letto a forma di cuore. Io non ci credo neanche se lo vedo, l'avrà scritto al tavolino del bar sicuramente sotto casa. Bene, questa canzone non si poteva ascoltare in Rai perché era troppo piccante. E vabbè. Abbiamo un esperto di seduzione con noi al telefono che forse magari ci risponderà anche a questa domanda. Andrea Roncato, ci sei? Pronto, ciao, come va? Ciao, qui tutto bene, lì? Bene, bene, sono in giardino di casa mia, c'è un giardino molto molto grande. Ma non sei ad Acapulco, quindi? Sembra di essere ad Acapulco. Ah, sembra. Andrea, ma te lo ricordi questo periodo della nostra vita quando non potevamo sentire la canzone di Mina alla radio perché è considerata troppo piccante? Ma io mi ricordo addirittura quando ero piccolino proprio, che quando, non so, De André diceva devono diventare tutte da grandi puttane. Cioè, ascoltavamo tutta la canzone aspettando che arrivasse questo pezzo come fosse la cosa più trasgressiva del mondo. Oggi invece la trasgressione pare che non ne vada più di moda, nel senso che sono tutti talmente trasgressivi. Io ho cominciato ad andare in Rai nell'80 con la Mondaini. Non si poteva dire culo, assolutamente no. Sedere neanche, bisognava dire fondo schiena in Rai. Fondo schiena? Sì. È perché più educato, naturalmente. Sì, sì. Fondo schiena lo potevi dire per indicare il lato B di una signora, ma altre parole non si potevano dire, che non è che sia ma una cosa, non si poteva dire. Andrea, abbiamo sentito prima una clip di un tuo film, appunto quello di Acapulco. Sì. Non è che tu ci fai una gran figura di seduttore però in quel film, perché non te ne va bene una alla fine. Ma proprio è quella che facciamo noi italiani, che facciamo i seduttori dalla mattina alla sera, che andiamo al mare a cercare di farci quello, farci quello. Io l'altro giorno pensavo, in fondo, i tradimenti estivi o i playboy estivi, in realtà sono dei poveri sfigati, nel senso che quelle donne che non possono tradire d'inverno, d'estate c'è così voglia di tradire che qualcosa gli capita pure a loro. Quindi vanno al mare con la speranza di trovare quello. E questi, che credono di essere dei playboy, si buttano su tutte e non fanno altro che accontentare queste che in realtà d'inverno non se le fila nessuno. Come questi d'inverno in realtà non cuccano niente. D'estate invece c'è questa voglia di essere liberi, cioè è un po' la mania di far andare al mare, trovarsi, essere corteggiati. E poi il mare, sai, ti dà tutto allegria, il sole ti mette allegria, il mare alle discoteche la sera, dove addirittura se tu guardi in discoteca la sera sono tutte belle, tutte abbronzate, quindi acquistano, tutte con la minigonna, col sedere e il resto di fuori. Poi casomai prendi l'appuntamento con una, la rivedi alla mattina, ma è successo di far finta di niente e tirare dritto. Non la riconoscevi neanche quasi. Perché no, era orrenda, e alla sera mi sembrava Miss Padania. Ah, di giorno invece era praticamente Bossi. Senti, Andrea, ma allora secondo te il vero seduttore è quello invernale? Ha ragione Paolo Conte quando dice che la donna d'inverno è meglio perché va scartata in mezzo a tutti questi vestiti. Certo, il vero seduttore è quello invernale, perché d'estate sai tutte queste cose che ti aiutano, sono su 100 cose ne hai già 90 pronte, quindi basta una decina. Ah già, sei già e tutto. D'inverno te le devi preparare tutte 100. Cioè, in inverno si vede veramente se sei un seduttore. D'estate prendi anche, seduci quelle che vanno lì per essere sedotte, perché d'inverno non le seduce nessuno. Quindi il vero seduttore sì, è invernale. Andrea, senza entrare nei dettagli, ci racconti una tua conquista inaspettata, cioè una cosa che tu non ti saresti mai aspettato di realizzare, invece zac, è successo. Diciamo quasi tutte. Ah, come quasi tutte? Sì. No, allora ti racconto una storia molto carina. C'era una molto bella, la incontrai in una, facevamo un tour con Pippo Baudo ed era con una sfilata di moda ed era una di queste ragazze che sfilavano, molto molto carina. E lei, io continuavo a corteggiarla, lei continuava a dire guarda tutti fuori che te, non mi dispiace, mi sei simpatico, ma proprio non sei il mio tipo. Non c'era niente da fare, proprio non è che me l'aveva fatto capire, proprio mi aveva detto in faccia, ma è inutile che ci provi, perché con te, se, anche se fossimo da soli in un'isola deserta, non ci starei. Quindi, però questa mi piaceva tanto, e comunque le stavo simpatico, perché diciamolo pure che la simpatia credo che sia l'arma in assoluto migliore la per conquistare una donna. Ma anche una donna se è simpatica diventa più bella, e quindi è un'arma per tutte e due, non solo per l'uomo. Chiaramente l'uomo è il conquistatore, lo diciamo perché in realtà sappiamo benissimo che quando noi conquistiamo una è perché lei ha voluto essere conquistata da noi, se no. Infatti i veri conquistatori sono quelli che capiscono quando è il caso di agire oppure quando non c'è niente da fare, perché anche se lei ti dice di no, tu capisci che in fondo c'è una piccola cordicina che se la riesce a toccare cambia idea. E io con questa avevo il sentore che prima o poi qualcosa succedeva. Ma poi è successo? Infatti lei poi se ne andò in vacanza col fidanzato in barca, che era anche ricco questo. Allora io, siccome lei aveva i capelli lunghi, molto belli, folti, neri, fino alla fine della schiena, sì. Io le mandai un messaggio con una canzone di Dalla, ho scritto quanti capelli che hai, non si riesce a contarli, ma sposta la bottiglia e lasciami guardare, che era una canzone di Lucio Dalla. Dopo 3-4 giorni mi arrivò un messaggio da lei con scritto e di questi capelli ci si può fidare, che era il continuo della canzone. Infatti lei aveva, non si sa bene, quando ero sempre lì con lei non mi fidava, quando è stata 4 giorni senza di me ha lasciato la barca del fidanzato, è sceso e mi ha raggiunto. Beh, quindi è finita bene, dai. Sì, è finita bene, Hai dimostrato in questa intervista una tecnica raffinata che non appartiene invece a quel tuo famoso personaggio, il Loris Batacchi. Loris Batacchi, ecco, è il romagnolo playboy, cioè che basta che respira, addirittura come si diceva, se non respira più basta che sia ancora un po' caldina, va bene. Cioè quelli che proprio non hanno ritegno, che il loro vanto è dire questa settimana sono andato con 10, che però su di chiedi come erano, allora una di 74 anni, un'altra di 180 kg, un'altra di 1,25 m, un'altra, però intanto fa numero, capisci? Sì, l'importante è la quantità e non sì, tanto sì, la qualità. Loris Batacchi era proprio quello che aveva messo incinta persino la figlia di Fantozzi. Di Fantozzi, che oltretutto nella realtà è un uomo. Infatti, sì. Che però chiudeva la luce, che c'è addirittura Fantozzi quando va lì comincia a fare la corte alla moglie, quindi lui partiva per il semplice fatto che tu sei donna, lui partiva. Vabbè, quindi gli andava bene tutto. Sì. Andrea, quindi grazie intanto, ma vai in vacanza o resti a casa? Io adesso sono a casa, stasera c'è il Festival di Giffoni, due proiettano hanno un film dove ho fatto una bella parte drammatica che si chiama Almeno tu nell'universo con Maria Giulia Elettra, che è un'attrice giovane molto brava, quindi vado a vedere questa cosa. Poi ho finito il film di Avati, e che uscirà a novembre, che è la più bella cosa che ho fatto nella mia vita, un film è serio e comico, nel totale una bellissima poesia, quindi è un film che sono orgoglioso di aver fatto con un'attrice stupenda che è la Ramazzotti, la Michela Ramazzotti, sì, sì, sì. E con Cesare Cremonini, il grande bolognese, che fa mio figlio. Ah, fa il figlio. E allora poi mi preparo, andrò un po' in vacanza in Sardegna da Smaila ad agosto, a San Teodoro, dove vado sempre, dove lui c'ha il locale, così alla sera mi costringe a cantare tutte le sere, ma io mi diverto. Beh, dai, e poi se ti diverti allora puoi farlo, dai. Sì, i primi di ottobre comincio questa fiction nuova, sono piaciuto per caso a Pupi Avati, sì. E ha richiamato me e Michela Ramazzotti a fare due parti molto grosse in questi 6 film che farà per Rai 1. Eh beh, allora hai un sacco di cose da fare, quindi riposati, sì, in Sardegna. Sì, sì, grazie. Sardegna, ma io sai, mi riposo molto anche a casa, nel senso che io sono uno che quando prendo una casa, la casa, sì, è normale, diciamo, quando dico villa mi sembra esagerato, però c'è un giardino di 8.000 metri che è un parco giochi. No, non è un parco giochi, è il parco della villa di Monza, quello, il parco della villa reale. Sì, c'ho le galline, i cani. Ah, no? Bene. E devo dirti, le cose più belle sono quando invito la sera gli amici, siamo qua, cantiamo, suoniamo, facciamo ci divertiamo, insomma. Va bene, allora buon divertimento e buona estate. Sì, grazie. Ti invito, quando volete venire basta che mi chiami. Guarda che poi vengono veramente. Ciao Andrea, grazie. Posso dirsi una cosa? Sì, ragazzi, dimmi. Ricordatevi, per l'estate dovete sempre usare questo motto: ci do, che ci do, che ci do. Che è il motto di Battacchi. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Ecco, Loris Battacchi, che è il tipico conquistatore romagnolo. Però esiste il conquistatore, l'idea del conquistatore è sempre però legata al caliente siciliano. Ecco qua le valigie, erano due, vero? Right. Adesso andiamo my car. Il mio nome è Giovanni. Welcome in Sicily, my beauty. Ecco qua. Tu molto gentile. Io in italiano. Poca spesa, very inexpensive. Molta pace, very quiet. Io conoscere piccolo albergo, little hotel. Dove tu molto incantata. No, io credo non possibile. I have reservation. Eh? Io prenotaccio albergo Taormina, tu capisci? Taormina molto romantico. Come vedete, Osto ognuno ha le proprie tecniche. Io vorrei anche conoscere le vostre. 800 24 00 24. Tecniche, avventure, conquiste inaspettate, qualcosa che vi è successo e voi non avreste mai sperato di poterla ottenere. Non siate vergognosi. Cos'è? Avete la moglie al fianco, avete il marito al fianco, perché voglio anche le storie delle signore, perché facciamo sempre il conquistatore, lo vediamo sempre come un uomo, però ormai la donna anche che conquista. Esistono però delle tecniche più raffinate per conquistare qualcuno e noi abbiamo un'esperta di bon ton che è Barbara Ronchi della Rocca, intervistata dal nostro Fabrizio Tonti, e sentiamo quali pillole di saggezza questa volta ci regala. Sempre l'uomo elegante conquista ma non racconta, non dice, quindi il parlare delle proprie conquiste è già di per sé un errore madornale sul piano del garbo e anche direi della conquista, perché se ci facciamo la fama di chiacchierone possiamo essere bellissimi ma avremo magari meno occasione. Quindi il vero gentleman, il vero Latin lover è quello che sta zitto, che non si gloria delle proprie conquiste, non dice io con quella lì, eccetera, eccetera. E questo vale anche su questi nuovi mezzi di comunicazione che sono Twitter e Facebook, perché una volta la chiacchiera andava di bocca a orecchio, di gomitata e cose del genere. Adesso finisce tutto sul computer. Quindi ricordiamoci che la vanteria della persona che vuole far vedere di essere un conquistatore, grazie o a causa di questi nuovi mezzi di comunicazione, può diventare anche punibile penalmente. Perché se io scrivo che ho conquistato il signor XY e ci sono andato a letto insieme, eccetera, e questo signore non ha piacere che si sappia, e magari non è neanche vero, mi può denunciare per calunnia. Quindi ricordiamoci che già è un gesto assai poco elegante, in più adesso con i nuovi mezzi di comunicazione diventa anche un gesto penalmente perseguibile. Secondo me vale la pena di tirar fuori quello che dicevano i nostri nonni, che è il famoso si fa ma non si dice. Voi invece ditemelo, va bene il bon ton, va bene lo stile, va bene tutto. Io non vi manderò mai davanti alla corte marziale, qui ha fatto quasi paura Barbara Ronchi della Rocca. Addirittura un problema penale. Eppure qualche anno fa Fred Bongusto, che è un grande maestro, cantava questo. 3 settimane da raccontare agli amici tornando dal mare. Ma cosa ho detto di male? Non fare l'offesa. Ti prego, ritorna qui. Ecco, lui ha conquistato lei, ma mentre la conquistava non gli interessava tanto la conquista o fare qualcosa, gli interessava soltanto il racconto che avrebbe fatto agli amici. Ai tempi non c'era Twitter, non c'era Facebook, forse si stava anche meglio, non lo so. E lei, saputo che lui avrebbe raccontato tutto, si offende, piange e lui dice ma no, guarda, mi sto innamorando. Poi è sparito il giorno dopo, non si è visto più e addio Fred Bongusto, è sempre stato un grande. Finalmente qualcuno ha trovato il coraggio di parlare delle sue avventure, spero. Si chiama David. Pronto? Sì, pronto. David. Allora, no, niente, io volevo fare un appunto. Sì. Ho sentito il signor Roncato che parlava di avventure, parlava di conquiste. Mi sono messo in comunicazione solo adesso, quando stava praticamente finendo. Ma credo che questi signori non abbiano titolo di parlare. Perché? Perché questi signori non fanno le conquiste, sono a loro volta conquistati. Quando vanno a letto con una ragazza, loro pensano di averla conquistata. Ma basta entrare nella scatolina, vuol dire entrare in televisione, che non è che si va a conquistare. Dopo si è conquistati dalle ragazze. Uno pensa di portare a letto una ragazza, ma non ha portato a letto niente. È lei che è venuta a letto con qualcuno, perché questo è quello che succede normalmente. Ah, se quindi tu vedi dietro, sì, ho capito. Allora io ti spiego, posso darti del tuo, del lei, come credi. Del voi. Io ti dico, io ti parlo da una persona che nella vita è andato, ha avuto avventure con più di 1000 donne, capito? Con no, quante? Più di mille donne. Conta la giusta, Alfredo. Più di 1000, l'hai detto, devi confermarlo, va bene. Allora, hai avuto tranquillamente. Allora, detto questo, io ti parlo da anonimo, capito? Io sono un anonimo perché nessuno mi conosce. Sì. Però quando si ha avventure con 1000 donne da anonimi, allora sì, quelle sono conquiste, capito? Ma scusa, ma queste 1000, si conquistati, sì. E si va in televisione, si diventa un famoso VIP, tra virgolette, che poi very important person, non si sa di che cosa, capito? Sì. A quel punto ci si vanta magari di aver avuto tante, tante ragazze, uscire con le ragazze, ma si pensa veramente di averle conquistate? Oppure è come ti dico io, che a sua volta si viene conquistati? Allora, dimmi una cosa, Davide. Dimmi una cosa, visto che prendiamo Andrea o un personaggio dello spettacolo, tu dici la sua forza appunto è la fama. Qual è invece la tua forza? Male, capito? Sì, ma qual è la tua forza? Un tempo malata, dove quando si entra in televisione, automaticamente il nulla diventa tutto. Nella politica, noi siamo nella società peggiore e stiamo andando a fondo proprio per questo. Noi andremo a peggio della Grecia, capito? Finiremo. Proprio perché siamo una società così, anche sul piano così, come dire, ludico dell'avventura che ci potrebbe essere tra un uomo e una donna, è una cosa bellissima. Siamo arrivati alla mercificazione, per cui allora, Davide, aspetta un attimo. Stiamo entrando in un campo economico. Facciamo una cosa, resta lì, ne parliamo dopo. Adesso dobbiamo ascoltare la Hit Parade, eh? Non muoverti. Hit Parade! Numero 10, A Canzoncella, Alunni del Sole. Numero 9, Trans Europe Express, Kraftwerk. Numero 8, Rocky, Maynard Ferguson. Numero 7, Amarsi un po', Lucio Battisti. Numero 6, Year of the Cat, Al Stewart. She doesn't give you time for questions as she locks up your arms and you follow till your sense of which direction completely disappears. Numero 5, Magic Fly, Space. Numero 4, Zodiac, Roberta Kelly. Numero 3, Rock Collection, Lauren Woolsey. Numero 2, I Feel Love, Donna Summer. Numero 1, Ti Amo, Umberto Tozzi. Ti amo, 1977, abbiamo scelto questa Hit Parade perché, come diceva Mike Buongiorno quando faceva quei programmi con la tombola, 77 le gambe delle donnette, ma anche perché al numero 1 c'era l'inno del pappagallo italiano, conosciuto in tutto il mondo, o almeno in tutta Europa, Ti Amo, di Umberto Tozzi. Adesso valutiamo veramente se le vostre attività, diciamo sessuali o comunque di avance, stanno facendo tremare i mercati, perché come diceva prima il nostro ascoltatore che torneremo a sentire, qua se continuiamo a fare conquiste finiamo come la Grecia. La bella estate. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei. che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Allora, anche voi avete fatto in spiaggia il pagliaccio per mettervi in mostra agli occhi di qualcuna? Bene, 800 24 00 24. Esagerate pure, non abbiamo assolutamente paura di niente ormai. Prima David ci diceva che aveva avuto mille donne, anzi più di mille donne. Adesso c'è Antonio, da Latina. Antonio. Sì. Anche tu? Sono io in linea? Sì, sei in linea. Sì. Aspetta, spengo la radio. Ecco, bravo, intanto. E prepariamoci a sentire le sue avventure. Antonio, ci sei? Devi ecco, raccontaci. Ascolta, non seguivo la trasmissione, però ho sentito questo signore che parlava, secondo me anche giustamente, del suo modo di conquistare senza essere famoso, sì, le donne, e mi sono un po' rivisto nella sua posizione, perché ritengo di avere superato anche abbondantemente questo numero nel corso del tempo. Cioè tu, no, aspetta, senza tu, fare il pagliaccio, Antonio, sì, tu hai, sì, conquistato più di mille donne. Ma credo proprio di sì. Racconta la giusta, Alfredo, se parli di me. Noi ti crediamo sulla buona fede, ma mille donne... Beh, non ho bisogno né di confessarmi né di fare... Ma d'estate nulla, o d'inverno? Di farmi credere sulla parola, soprattutto d'estate, ecco. in una zona di mare, in una zona turistica che prima era frequentata molto dai romani e soprattutto dalle romane, in una zona del Circeo, quindi tu, Antonio, tu giocavi in casa, non andavi con le straniere, cioè non puntavi sulla straniera? Anche straniere, ma soprattutto italiane. Ma tu facevi il bagnino? Io non ho seguito molto bene la trasmissione, quindi non so se sono nel tema. No, sei esattamente nel tema. Però le italiane non è che siano seconde alle straniere. No, ma sai cos'è? Che il seduttore pensa che la straniera venga qui per quel motivo, ha quello che cerca, capito, e poi va via, capisci? Ecco. Ho capito. Però tu che fai il bagnino, no? No, assolutamente. No. Non credo di essere nemmeno... un superfuso. E allora raccontaci qual è secondo te il tuo segreto, qual è la tattica che applichi? Credo il savoir-faire, sicuramente il savoir-faire è una cosa indispensabile, avere classe e ricercare classe nella donna, perché non è che uno si mette, come dire, a puntare la preda soltanto, ma è molto facile nel periodo estivo, se si è nell'ambiente giusto, se si frequenta il baretto giusto, il chiosco giusto, la discoteca giusta, è molto facile avere contatto, e nell'avere contatto, nell'avere relazione, nel sapersi proporre, è molto facile, anche perché si ricerca questo contatto da parte di tutti quanti, è molto facile, come dire, andare a letto, tra virgolette. Sì, ma prima, aspetta, perché prima del letto c'è la conoscenza, quindi qual è il tuo modo? Ma il tuo modo per rompere il ghiaccio qual è? Non è che siamo animali. Lo so, ma come fai tu a rompere il ghiaccio? Adesso non so, penso che sia una dote, Gesù, sto dicendo una parola sbagliata. Sì. Un meccanismo naturale di approccio, di... Sì, ma dici, che bella giornata, signorina, cosa no, dici? Qual è la prima frase che dici, qual è? Oddio, penso che... Mi sta prendendo un po' in castagna, però non c'è è un gioco di sguardi, secondo me, non è un gioco soltanto di parole. La parola viene subito dopo lo sguardo. Il linguaggio del corpo. Lo sguardo del corpo, ma anche lo sguardo proprio dell'occhio. No, dico il linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo, se c'è una certa complicità. Poi io ritengo che ci sia bisogno di sicurezza, di classe, di sapersi proporre in maniera appropriata, perché l'altro ricerca anche in te, secondo me, adesso può farsi pure che dia una stupidaggine, ma non credo. Ecco, è una donna che ti sta cercando, allora di no, ma forse sì, grazie ad Antonio. Ma figurati, grazie ad Antonio abbiamo imparato una cosa. Allora, bisogna fare così: voi fate un gioco di sguardi, la guardate, e se le risponde 50 euro con la camera, ci sta. Sì, tu non devi fare niente, fa solo quello che fa papà, non ti puoi sbagliare. È cambiata la direzione del vento, mo soffia da est. Sì, Cristiano Bella, papà non gliene frega niente del vento. Guarda qui che sventole che ci sono. Guarda, le vedi? Tutte disponibili, tutte belle. Guarda quelle due, Cristiano. Guarda quelle due. Quali? Belle, accendi la sigaretta. Ma non fumo, quante volte lo devo dire? Cazzo, frilli. Ai momento. Please, miss, excuse me. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Loro tedesche? Sono tedesche? Ja, siamo di Hamburg. Oh, di Hamburg, lo senti? Anche Alberto Sordi e Carlo Verdone in viaggio con papà, in una scuola contro l'altra. A Sordi è la vecchia scuola, punta sulle straniere, diretto, invece è il figlio Verdone, timido, ha altri problemi, il famoso bamboccione, e quindi non porta più avanti questa figura di Latin lover estivo. Mi raccomando, il Latin lover, oggi parliamo dei Latin lover estivi, anche se con Andrea Roncato prima abbiamo detto che il vero seduttore deve essere invernale. Penso che si stia girando ancora nelle nostre linee telefoniche Davide da Firenze, l'uomo che ha avuto più di 1000 conquiste e dice, senza andare in TV naturalmente. Davide, sei ancora lì? Sì, sono qua. Allora, devi dirci adesso però, lasciamo da parte le polemiche, la TV, la fama, eccetera, ma il tuo segreto qual è? Il mio segreto è stato quello di valorizzare sempre la donna, perché la donna è l'elemento più bello che possa essere, che c'è sulla terra. Io intendo. Sì, ma porti dei fiori, cos'è che fai? Come fai a valorizzare? No. Fiori, cercare no. Di entrare in sintonia con quello che lei si aspetta. Purtroppo la donna non è valorizzata nella politica, nell'economia, in tutto. Ci salverà la donna, ci può solo salvare le donne, capito? In questo paese ormai allo sfascio, capito? Il problema è quello. Io ho sempre pensato che la donna sia la cosa più bella che ci possa essere nella vita. Ecco, allora concludiamo con questo omaggio alle donne e non pensiamo più allo sfascio, perché sennò veramente ci deprimiamo. Ah, Fabrizio, da Livorno. Pronto? Fabrizio. Sì, ciao. Non sono di Livorno, sono di Prato. Però sì, vabbè, la vicino. Da Livorno sono venuto via dai mari adesso. No, ecco. Dicevo... Fabrizio, non buttarla in politica. No, assolutamente. E neanche in economia. Stiamo sulla battigia. No, io sono sul... mi verrebbe di parlare molto da pratese, un po' diretto, ma mi contengo. Sì. Senti, parlando di donne, cioè l'articolo principe... Di conquiste. Esatto. Tu hai un numero? Quante conquiste avrai fatto? No, allora guarda, non le ho contate, mi sono alquanto divertito, però come diceva la sua collega, all'inizio era una cosa quasi da kafkiana, perché da quando ero più piccolo piacevo alle mamme. Sì. E non alle ragazze. Ora che ho una figlia di 20 anni, sono separato, sono come si suol dire a piede libero. Sì. Piaccio più alle figlie, alle compagne di mia figlia. Mi state mettendo in crisi quella poca cultura che ho. Non ricordo un romanzo di Kafka in cui Kafka abbia parlato di questo. No, è la situazione kafkiana. Una situazione d'assurdo. Sì. Cioè, era proprio la situazione, ecco. Ho utilizzato questo modo di dire. No, va benissimo. Quindi adesso piace alle ragazze. Adesso piace più a quelle giovani, però non faccio il ragazzo, faccio sempre il babbo o il cugino maggiore, no? Però per quanto riguarda il collega delle mille, che è fiorentino, sicché siamo vicini di casa, diciamo così. Magari vi conoscete anche, avete anche conquiste in comune. Può darsi, non è che sia tutto questo pascolo, come si suol dire. Ecco, sono già il bestiame, questo pascolo, dai. questo parco, questa disponibilità. Parco sembra un parco auto, è più riduttivo. Hai ragione. Pascolo è un po' più bucolico, è un po' più... Ma comunque il sistema, oltre ai giochi di sguardi, eccetera, eccetera, è la cosa più banale copiata dal venditore, perché tra l'altro faccio anche il commerciale. Sì. Devi trovare un qualcosa che ti accomuni, un interesse comune con la donna. Allora devi occhieggiare, vedere... Sì, Fabrizio, in una situazione del genere l'interesse comune si sa già qual è, quindi non bisogna neanche andare lì troppo per il sottile. Comunque abbiamo imparato anche da Fabrizio. Adriano da Bergamo c'è adesso. Buongiorno. Pronto? Adriano. Buongiorno, io volevo trasmettere un messaggio a questi conquistatori. Sì. Non confondere un bel sorriso di una donna con una conquista, oppure una bella parola, semplicemente devono prendere come... Un sorriso e basta. Non dobbiamo esagerare. 1000 donne in una vita, dai. Ma infatti quello che dico anch'io. 3, 4, 5 anni. E poi noi sappiamo un'altra cosa. Cosa? Sono gli uomini che conquistano e gli altri due uomini che dicono che conquistano. È una grande differenza. Lo so, è una grande differenza. Ma c'è anche un'altra... grazie tante. C'è un'altra cosa che però voglio subito approfondire, perché finalmente all'800240024 è arrivata la telefonata di una donna. Giovanna. Pronto, Giovanna? Pronto. Sì, non essere timida. Pronto? Mi senti? Sì. Allora, Giovanna, No, volevo dire che a volte siamo anche noi a cercare in tutti i modi di conquistare gli uomini. Ma quello che cerchiamo di farvi dire da quando ho cominciato il programma, dalle 4 praticamente. Perché anche io ho cercato di fare le mie conquiste in tutte le maniere. Dici una maniera che tu metti in pratica per conquistare un uomo. Niente, io come niente? Ero a Lir di Camaiore, c'era un signore di Prato. Sì, tutti fiorentini oggi. Io non sono di Prato, io sono emiliana. Sì. E niente, mi piaceva questo signore, io avevo 25 anni. E lui? E lui aveva già 40. E allora? Di cotte di crude, perché lui mi si interessa a me, insomma. E dicene una cotta o una cruda, facci sapere, vogliamo imparare. Andavo dove andava lui, c'ero anch'io, mi ancheggiavo, gli occhioni, insomma... Ho cercato di conquistare finché lui si è accorto di me e poi niente, è andata bene. È andata bene, ma quanto è durata? È durata un anno. Un anno? Sì. E poi è finita? E poi io mi sono stancata. Poi dicono che gli uomini sono degli sciupa femmine, invece Giovanna... È durato un anno e mi sono stancata, ci incontravamo a metà strada perché io ero una persona già sposata. Come? Eri già sposata? Lui era già sposato. Mamma, oggi siamo veramente scesi nella tresca, nel peccato. Dovremmo confessarci tutti alla fine di questa puntata, eh? Mi raccomando. Dovremmo confessarci, ma non con me, col confessore. Ma beh, poi avevo 25 anni. Vabbè, Giovanna. Anche io i miei errori. Ma non sono errori. Giovanna, ma l'estate dopo poi che hai fatto? L'estate dopo ho cambiato, non sono andata più a Lir di Camaiore, a Viareggio. Hai cambiato spiaggia? Io ho cambiato spiaggia perché sapevo che lui era sempre andava. Ma altre conquiste no? Altre conquiste? Altre conquiste sì, ma basta questa. Va bene, basta questo. Volevo dire che anche noi tante volte ci diamo da fare per conquistare gli uomini. Ma lo sappiamo, infatti era quello che volevo farvi dire e l'avete detto. Allora, grazie a Giovanna. Bene, pensavo peggio, pensavo una cosa più piccante, invece poi l'ha buttata in politica, in economia, e vabbè, lasciamo stare. Allora, è finita anche oggi, quante volte figliolo, domani ci saranno le vacanze al risparmio prima del low cost. La puntata si chiama Con un Deca. Quindi tutte le vostre vacanze fatte anche scroccando. Grazie a Mauro De Angeli in regia, grazie a Vela Bottone in redazione. Noi ci sentiamo domani, mi raccomando, è Con un Deca, vacanze all'insegna dello scrocco. Ciao!